DJ King. DJ Contrasto. Baba. Pubblico zero, fottuto freestyle. Yeah. Ok. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Pubblico. Io tranquilli. Tranquilli, è partito 24-24esimi, centesimi. Lui screccia 24 ore su 24esimi. Lui si chiama il nostro mixerista DJ 24esimi. Ok. Panico, poco panico. Perché siamo nella CAS. Qui c'è qualcuno che freestyla e non inizia per S. Inizia per tu. Lui è della crew. Lui si chiama Jam. Attenzione, presento DJ Contrasto. Ok, oh, attenzione, non scappate perché è arrivato pubblico zero. Oh. Il pubblico zero fa parte del mondo intero, ma anche DJ Yannis che non ha paura anche delle strade. Attenzione, DJ Stan, lui si chiama D.G.Uzi. Divino. Uzi. Uzi non Uzi. Persino. Magari il quinto elemento. E lo presento a cento. Si riesce nel mezzo. Lui è Baba ed è il sesto componente della troupe. Veloce, è qui per rimare, non vedo l'ora di farvi ballare con le mie rime. E fatto questa session, vi faccio obsession. Oh, e quando entro in pista, giochiamo in questa pista. La pista è sempre losca, ma la rima è molto tosta. E ora sono vista, veloce, nulla mi nuoce. Ti dico porco Dio, non lo sapete che posso solo dirlo io. Dice la sua potuta che scende in pista. 1, 2, 3, sono secondo della lista, sono in pista. 1, 2, 3, senti chi. E il cambio con la base che cambia. Non lo sento, sai, io sono il suono che risponde.